Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo del romanzo Manna e miele, ferro e fuoco, scritto da Giuseppina Torregrossa e pubblicato da Mondadori. L'autrice si era affermata con L'assaggiatrice e poi con Il conto delle minne. In questo romanzo racconta la storia di Romilda, destinata a diventare la sposa bambina di Don Francesco, il barone di Ventimiglia. Ma sentiamo come l'autrice parla della protagonista. Romilda è l'icona di tutte le donne, rappresentazione di tutte le donne. È una donna forte, una bambina che viene in qualche modo privata della sua infanzia, che subisce una sofferenza e che matura attraverso degli eventi più o meno drammatici finché scopre il piacere della libertà e soprattutto la sua forza e l'entusiasmo anche di poter gestire la propria vita in prima persona. Da piccola la vediamo vivere così, come dire, in simbiosi con la natura. Ma io questa simbiosi con la natura è un po' una cosa che un po' ricerco in prima persona. Credo che l'uomo sia un po' infelice proprio perché si è allontanato dalla natura. E Romilda, forse per questo, deve la sua felicità, ricorda la primissima infanzia con grande commozione, proprio perché vive questo rapporto di simbiosi con la natura e quasi le api sono le sue compagne, i suoi compagni di giochi, le sue compagne di gioco, i fiori, anche la madre stessa è un tramite, la mamma di Romilda è un tramite, è colei che la apre a questo incontro con la natura. Da qui una parte del titolo del romanzo, Manna e miele, no? Sì, manna e miele sono due elementi fortemente evocativi. Il miele è la dolcezza di cui tutti abbiamo un po' bisogno, no? E Romilda vive nei confronti del miele quasi una sorta di dipendenza soprattutto nei periodi di tristezza. Il miele quasi la riempie, no? Le dà conforto. La manna è l'elemento della saggezza, della capacità di interagire con una comunità senza approfittarsene, con questo senso di giustizia e di equilibrio. Accanto alla manna e il miele però c'è il ferro e il fuoco. Che cosa succede nella storia di questa ragazzina? Romilda incontra il barone di Ventimiglia, il ferro e il fuoco appunto, che uomo prepotente, molto più grande di lei, che la vuole sposa. E lei la sposa quasi come se l'acquistasse, come compra un cavallo, come compra una casa. Romilda non è turbata all'inizio. Anzi, tutto sommato, sebbene molto più grande di lei, Francesco di Ventimiglia è ancora un uomo prestante, lei ne rimane molto colpita. Però Francesco è un uomo egocentrato, non è capace di dare amore, utilizza Romilda creandole una serie di sofferenze perché quasi le succhia lo spazio vitale. E alla fine Romilda diventa un oggetto da utilizzare a seconda delle circostanze. Questo è lo stato di sofferenza e in questo modo Romilda entra in uno stato profondo di sofferenza. E, il ferro è l'elemento di prepotenza in questo caso, il fuoco è l'elemento della cattiveria, anche se poi, siccome le cose non sono mai solo una cosa, il fuoco può diventare il fuoco della passione e non solamente quello della cattiveria, e il ferro può diventare la resistenza, la capacità di resistere alle circostanze avverse, anziché la violenza del ferro e delle armi. Ecco appunto come Romilda vive questo rapporto con quest'uomo. Romilda è stupita, si apre al rapporto con Francesco di Ventimiglia con un animo commosso e felice e ha questo sguardo incantato, perché Romilda è una bambina di 13 anni quando diventa la moglie di Francesco di Ventimiglia, e quindi ha uno sguardo incantato e un po' sorpreso e si accosta con la curiosità della giovane età. Dopodiché subisce una serie di delusioni, si accorge che quest'uomo non la tiene in nessuna considerazione, ma comincia a deprivarla dello spazio vitale, dell'aria che respira, della capacità di decidere, e la impoverisce progressivamente. E a un certo punto Romilda diventa una schiava di Francesco di Ventimiglia. E la cosa più difficile, più brutta di questo stato di schiavitù è che lei non ha nessuna forma di ribellione, è una schiavitù passiva che può somigliare, se così mi passate un po' il paragone, anche se chiaramente i due eventi sono insomma un po' per portata sono un po' distanti, può somigliare un po' alle deprivazioni dei campi di concentramento. Perché spesso la gente, pur sapendo di morire, si assoggetta in questi stati di desertificazione totale e di mortificazione, si assoggetta alla morte senza accennare a nessuna forma di ribellione. Perché la tecnica è quella progressivamente di deprivarli ogni giorno di un pezzo di qualcosa, fino a che anche la forza di volontà e la capacità di ribellarsi viene annullata. E a quel punto anche Romilda in qualche modo si assoggetta, viene deprivata in forma passiva, e ci vorranno molte cose che non è meglio non svelare per evitare di raccontare la trama del romanzo e per evitare la sorpresa al lettore. Però ci vorranno una serie di avvenimenti perché Romilda riesca a recuperare questa capacità. Come è nata l'idea di questa trama? Le idee non so se nascono per caso o se è tutto scritto. Certo è che le mie idee nascono spessissimo in Sicilia, che è la terra che io descrivo. Ho bisogno di quell'aria per poter raccontare qualcosa di forte. E in una cena fra amici ho conosciuto una persona che mi ha parlato della sua famiglia, che non è la famiglia di Romilda però, e mi ha indirizzato verso una zona del paese che sono appunto le Madonie, che sono appunto il paese di Cefalù, che io non conoscevo perché io sono palermitana. E poi lì è stata un'emozione, una suggestione, poi mi sono innamorata della Manna, ho cominciato a frequentare i boschi della Manna e ho cominciato a scrivere così, non so se per caso o per destino, è nata Romilda. Nei suoi romanzi le protagoniste sono sempre donne, donne molto particolari, come mai? Perché credo che tutte le donne siano particolari, se solo si avesse la pazienza di ascoltarle, la curiosità di lasciarle parlare anziché parlare sopra quello che loro dicono, probabilmente scopriremmo che ognuna di noi ha un talento particolare e che ogni donna ha qualcosa di nuovo da raccontarti, perché le donne si muovono tutte sul filo delle passioni e delle emozioni. Capisco anche che è stupido generalizzare, però è proprio il nostro fisico, il nostro cervello, il nostro clima ormonale che ci spinge più verso un lato emotivo della vita che non verso un lato razionale, pur non mancando esempi di grande razionalità, ma è la minoranza. E allora se avessimo un po' la curiosità di ascoltarle, forse scopriremmo dei talenti in ogni donna che si incontra durante il giorno. E questa era Giuseppina Torregrossa, autrice di Manna e miele, ferro e fuoco, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.